Ruba hit the riff, yeah, ruba gane, na fallo sgotto, yeah, pila velli, titto, just na rabbet, to go got, te paranda, giutti, ti leva li pai. Got, te paranda, giutti, ti leva li pai. Oh, got, te paranda, giutti, ti leva li pai. To zul fande na ag, banai, fir di ha, kudi, kapparo no. Sit down.